avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'a... Non avevo nemmeno fatto in tempo a farmi immortalare ieri assieme a Barbara Alberti con un mazzetto di ciclamini in mano, che oggi Roma è sprofondata nell'inverno più gelido. E questa mattinata d'inverno ci riporta a nostalgie passate, in cui ci si nascondeva nel torpore casalingo a guardare la televisione, soprattutto il pomeriggio, soprattutto quando si era ragazzi, soprattutto quando intorno tutto sembrava essere ottimistico, in quel periodo fantastico che furono gli anni Ottanta, in cui sembra che siano passati i momenti migliori della nostra vita, ma così in realtà non era, era tutta un'illusione, era tutto il preambolo a quello che oggi poi sarebbe accaduto in questa alternarsi fra reale e immaginario in cui viviamo ogni giorno. Beh, in quegli anni probabilmente ci furono delle boe che hanno segnato tutti noi, che hanno il fantastico privilegio di sopravvivere tuttora. I telefilm che guardavamo in quei neghittosi pomeriggi invernali in cui molti avrebbero dovuto studiare, ma ero già grande, io ho questa sovrapposizione di ricordo con i ricordi dei miei fratelli più piccoli, in realtà io c'avevo già barba e baffi, probabilmente già lavoravo in quegli anni, però facciamo finta che eravamo tutti ragazzi, visto che immagino che l'età anagrafica di chi mi ascolta sia molto inferiore della mia. Beh, in quei pomeriggi invernali c'era il fantastico appoggiare la propria mente sgombra da ogni pensiero familiare, studentesco, sentimentale su queste protogaglioffate televisive che ancora avevano qualcosa di tenero, qualcosa legato alla nostalgia, in epoche ideali come gli anni 50 ricostruiti fittiziamente, che corrispondevano con quella che poteva essere una maniera di vestirsi, di pensare, di ascoltare musica anche nella vita concreta. E quindi c'era questo entrare e uscire in una dimensione fantastica, in una dimensione concreta. Beh, andiamo per le spicce. 800240024. Se vi faccio ascoltare questo, che tuffo al cuore avrete voi questa mattina. Perché non ti siedi? Certo. Ho una cosa per te. Cosa? Due biglietti per il concerto di stasera. C'è Beethoven che suona. Oh, è splendido. Già. Comunque penso che tu volessi dire che suoneranno Beethoven. Beethoven è morto. Ma sospeso il concerto. Sto scherzando, lo so che Beethoven è morto. Io rileggo i giornali, cosa credi? Grazie. Ho sentito che faranno una fantastica variazione sulla nota. Ah sì? Io ho una variazione da fare con te. È un po' moscio come pezzo d'inizio, diciamo la verità. Vediamo se telefonando all'800240024 riuscite a colmare la lacuna in questo momento. È nell'immaginario di molti, si staranno sforzando dicendo: ma cosa mai abbiamo sentito? Questo avete sentito. Ehi, sei arrivato. Bene, pensavamo che saresti scappato. Senti, perché non ne parliamo? Sì, potremmo parlare, ma alla fine io e i miei amici ti riempiremo di pugni. Quindi, tanto vale farlo subito, no? Noi ce l'abbiamo con quelli che suonano e siamo pieni di odio. Fonzi! Mi hanno detto che qualcosa non andava. Senti, Bello, io me ne andrei se fossi in te. Per prima cosa non mi chiamo Bello e seconda cosa tu non sei me, Scimmione. E dato che non ti piace molto parlare, non ho alcun rimpianto a metterti fuori uso la bocca, eh? E pensi di farcela, noi siamo in tre. Questo non lo sapremo mai, due sono già scappati. Beh, non mi sembra affatto leale. Eh sì, voglio dire due contro uno. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps. La cosa bella è che ancora continuano ad andare questi telefilm. Il protagonista già invecchiato, già stempiato, già fatto regista, già fatto fantastici film, già c'ha un piede nella fossa, già il padre è morto, già probabilmente la madre, già la sorella, non so che fine abbia fatto, eppure ancora al pomeriggio in qualche canale satellitare ancora si vedono le storie di Fonzi, le storie della famiglia Cunningham, le storie di Ricky, le storie di questi eterni bamboccioni che sognano di poter baciare una ragazza nell'età in cui uno già dovrebbe avere ripassato il Kama Sutra 10 volte per tutto l'India. dice dalla prima all'ultima pagina. 800240024, questo è soltanto l'assaggio. I vecchi, sani, antichi e nostalgici telefilm degli anni Ottanta. Giuseppe Sansone, buongiorno. Tu sei di questa generazione? Tu sei io l'ho vissuta da bambino, io vedevo Happy Days da bambino e dopo un po', verso i 9-10 anni, ho cominciato a trovarlo un po' stucchevole. A 8 anni ancora mi piaceva. Comunque, qui siamo in quella, nella piena invenzione della nostalgia, quella che Emiliano Morreale nel suo libro parla, descrive molto bene. Cioè, qui erano gli anni 50, inventati dagli americani negli anni 70, fra il Vietnam, l'inflazione, per lenire tutto questo, questa cruda realtà, e rivissuti da noi che non abbiamo vissuto jukebox, drive-in di quel tipo, insomma, quel mondo lì, con nostalgia, in un eterno presente che è consustanziale alle serie televisive, alle sitcom. Servivano a creare un immaginario, come se noi avessimo vissuto realmente quell'epoca. È come quando noi da bambini chiedevamo alla mamma di farci le frittelle con lo sciroppo d'acero, perché vediamo che qui qua la mattina facciano quella colazione, e le mamme degli anni 60-70 non sapevano dove piffero andare a comprare lo sciroppo d'acero, perché non è come adesso, ci sono i negozi in cui compri tutto. Andavi nella bottega del paese sotto casa, chiedi lo sciroppo d'acero, ti guardavano con due occhi così. Comunque Happy Days merita un'analisi accurata, perché c'era questa figura di Fonzi che era una, ecco, in un casting ideale, senza essere razzisti, in un casting ideale, una faccia come quella di Henry Winkler, gli fai fare il capo magazziniere in un supermercato, non gli fai fare il selvaggio di alla Brando, alla James Dean, l'eroe maledetto. Invece qui gli mettono Lobardo, gli mettono questa maglietta bianca, il giubbotto di pelle, la pettinatura e questa atteggiamento da gallo cedrone, e diventa il fulcro che era naturalmente l'italo-americano, era di origine italiana. Fonzarelli, sì. Invece Ricky Cunningham era il bravo ragazzo, il futuro regista Ron Howard, anche parodiato in molte puntate dei Simpson. E poi c'era il padre Tom Bosley, che era questo massone, un negoziante di ferramenta, massone, è scritto alla loggia della, questa loschissima non meglio precisata, loggia del leopardo. Marion era la madre un po' stucchevole, un po' ebete, questa madre che vede questi figli eterni bambini, e tutto era melliflu e rassicurante fondamentalmente. Ecco, qua c'è una vicenda che sollevai qualche anno fa proprio qui a Melog e suscitai da parte del pubblico reazioni molto scomposte e molto veementi. Esiste una linea di pensiero nelle interpretazioni di Happy Days fatte soprattutto dalle varie comunità di rete, canalizzando attentamente alcuni episodi e in generale la composizione di questa singolare famiglia, una famiglia con una figlia, anzi con una figlia e un figlio, che ha una mansardina, e in questa mansardina prende una sorta di teppista donnaiolo e lo ospita dentro, e lui ci porta le ragazze, e la mamma di famiglia così poverina, trascurata da un punto di vista sentimentale, diciamolo anche di attenzione fisica, ha questo rapporto materno ma che va oltre con forza. Insomma, il sospetto lungamente cavalcato in rete è che tra Fonzi e Marion Cunningham ci fosse una storia, cioè si trombasse la mamma di Ricky. È secondo te questa cosa percepibile, ammissibile, o è una fantasia? È possibile, no? Coglio un nervo scoperto, perché in queste serie, come per esempio Gli eroi di Hogan, ci fu un film nel 2002 del geniale Paul Schrader che si chiama Out of Focus, che descrive uno di questi eroi di queste sitcom americane melense, appunto Gli eroi di Hogan, ambientato in un campo di prigioniere, che era un erotomane e fu ammazzato. Fu uno dei primi ad avere i primi videotape ed autoriprendersi mentre faceva orge con questo suo amico, e poi fu ammazzato da questo suo amico e complice. Quindi dietro l'aspetto melenso, mellifro, cartonato delle grandi scenografie, c'era, spalpitava il torbido, forse anche fra di loro. No, dice che poi nella sceneggiatura era sottesa questa cosa qui, si capiva e non si una capiva. Una reticenza manzoniale, dici? Sì, nel senso che si vede che questa madre era esageratamente gelosa di queste ragazze che portava sempre Fonzi nella sua mansardina, fra di loro ci fossero, insomma era l'unico uomo. Poi che quello andava alla loggia del leopardo e il padre. Ma lui furbescamente, con questa sorta di animus papponcello viscerale che aveva, un po' la blandiva e la leniva, perché lei lo teneva gratis in affitto in questa mansardina. Rosa, buongiorno. Pronto, sto sorridendo di questa teoria. Ma lei è mai venuto Fonzi, questo sospetto? No, anzi, io ho sempre pensato che Fonzi, essendo uno snello, un abbandonato, ispirasse una tenerezza infinita a questa mamma che l'aveva un po' accolto nella sua famiglia, ecco. Sì, ma la mamma perché avrebbe fatto? C'aveva già due figli. Era un istinto materno, insomma. Ma aveva figli in abbondanza, secondo me. Vabbè, uno in più, insomma. Uno, tra l'altro, che aveva caratteristiche così diverse dai suoi. no, arricchiva il suo, non so, non ci avevo visto questo, insomma. Ma poi se ci riflette bene, guardi, il marito è classico cornuto, perché oltre a stare tutto il giorno in ferramenta le sue serate libere le passava mettendosi il colbaccone con le corna, andando a fare il logista con i suoi amici, quindi era chiaramente una casalinga frustrata e trascurata. Si porta in casa. Curata? No, per favore, aveva sempre delle capigliature, dei vestitini. Scusi, si faceva riccioline le permanenti come le donne dell'epoca per essere presentabile e decente in famiglia, ma sì, faceva la serva di tutti. Non aveva... Era il buon senso ottuso, era proprio metafisicamente. Questo sì, però io ho sempre pensato che lo facesse per quello, insomma, ed era l'unico che riusciva a far dire a Fonzi che aveva sbagliato, gli faceva pronunciare questa parola che per lui era impronunciabile. Eh beh, era il prezzo del segreto che li legava, secondo me. Il suo navigatore ha detto deve girare a destra, ha sentito? No, ho pagato la tangenziale, sto andando a lavorare. Ah sì, era la voce. Va bene, grazie. Comunque mi fa piacere che sia una signora aver aperto la nostra rassegna, la nostalgia. Sentiamo Dino. Sì, buongiorno. Lei è d'accordo su questa teoria che abbiamo detta subito, così siamo tolti il dente? Non ho sentito gli ultimi minuti perché mi ha detto di spegnere la radio e non sentivo molto bene. Io volevo intervenire, comunque mi pareva di aver capito sull'ospite che diceva che non avevamo proprio vissuto quei momenti come sono rappresentati nei telefilm di Fonzi. A meno che lei avesse vissuto nell'America degli anni 50, non lo so, è difficile. Però ecco, io ho vissuto negli anni 60, ho fatto dai 14 ai 24 anni, Fonzi è venuto dopo, però io vedevo in quei telefilm quello che succedeva nella provincia. Io ero del Vercellese, quindi nella provincia c'era, in tutti i paesi c'era il Fonzi di turno che si comportava esattamente come Fonzi. Allora... A lei dice che ci sono dei personaggi da commedia o da tragedia universali che attraversano trasversalmente tutte le province del mondo, la provincia americana come la provincia vercellese, c'era un Fonzi, c'era un signore con una ferramenta occupato dei suoi affari, c'era una moglie con dei figli e c'era questi... Si comportavano in quel modo lì, i Fonzi aveva una Vespa GS, mi ricordo, l'altro aveva invece la Lambretta 175 ed era già un motivo di lite. Eh sì, i vespisti e i lambrettisti erano due categorie dell'esistenza. Nelle balere ci aspettava fuori e si faceva anche a botte, oppure si faceva finta di fare a botte, tu non sai, e arrivava la compagnia a difendere quello che aveva portato via la ragazza all'altro dell'altra compagnia, e quindi c'era, io personalmente avevo un Morini ed ero un po' una via di mezzo. Il Corsaro 125? La moto Morini? Sì. No, un 175. Ah, 175, così poteva andare 37, anche sulla superstrada. 37, 175, ed ero quello che cercavo di portare la pace un po' tra il fondo. C'è anche una canzoncina, ho comprato la moto Morini, l'ho comprata mia cara per te, ma ho saputo, e poi finiamo qua che non si può dire alla radio. Bene Dino, la ringrazio, mi fa molto piacere, andiamo avanti. Siete arrivati, signori, benvenuti. Sta parlando con noi? Certamente. Ma guarda che roba, nei quartieri alti da 2 minuti e già siamo diventati signori. Entrate. Oh, signor Drummond, posso dargli una mano con i ragazzi? Ragazzi, questa è la signora Garrett, la nostra governante, Willis e Arnold Jackson. Salve. Salve, ragazzi. Lei è veramente in gamba. Signora, è sicura di essere bianca? Sì, solo i miei capelli sono ossigenati. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Uno dei dolori più forti dell'anno passato è stato il giorno che seppi che era morto il mio amico Arnold. Poverino, una vita travagliata, ma io ricordo che era verso primavera scorsa, in una via di Milano c'era un graffito che rappresentava Arnold, e non so perché mi ero messo in mente che quello era un luogo che portasse particolare fortuna, lo dissi, lo misi su Facebook, cominciò a crescere un culto di Arnold, la gente andava a farsi le foto davanti a questo graffito urbano con Arnold. Il mio amico Arnold fu qualcosa di paradossale, un attore sfortunatissimo che interpretava una parte carezzevole di un bambino nero adottato in una famiglia bianca, che era una sorta di profeta e di oracolo in questa famiglia. Lo scoprirono durante la serie, perché lui sembrava che fosse un bambino prodigio, invece era un adulto, era questa sorta di 60 freak. Anni, quanti anni aveva? No, sì, arrivò a 17 anni, ma ne dimostrava sempre 8, un po' una sorta di freak. Sì, aveva un problema alla Todd Browning, sì. Era la Todd Browning, e qui c'era proprio l'orgia del pietismo peloso del Wasp, del signor Drummond, che accoglie questi due bambini perché sono i figli della sua vecchia governante di Harlem, e quindi lei muore e appunto dickensianamente li cede a questo signore di Manhattan. Ed c'è la scena, io ho visto la scena iniziale meravigliosa in questa, con questa scalinata alla Max of Furs, lui che li porta in casa, li arrivano in casa i due neri e gli porta: guardate quanto è bella Manhattan davanti a questo poster di carta, guardate che bella vista finalmente a Manhattan. Cioè, è tutto un tromplay, è tutto un ingannare, e il fatto che lui non crescesse si consustanziava all'eterno presente delle serie, era proprio perfetto teoricamente. Allora, questi tre film avevano, insomma, fatto pensare a una location comune, che è ancora la stessa della casa dei Simpson. Le case erano tutte uguali, si entra in una specie di soggiorno dove c'è un divano in cui si svolgono le scene principali di fronte al televisore, poi c'è una scala che sale al piano superiore dove sono le camere da letto. Allora, la casa dei Cunningham è fatta così, la casa degli adottatori di Arnold è fatta così, la casa dei Simpson è fatta così, la casa dei Jefferson è fatta così. È un modello unico, è un set unico. La casa dei Simpson è la summa teorica di queste case, è chiaramente la delisione e la teorizzazione di questa sorta di proscenio in cui vivono, insomma, no? Poi c'è l'altra caratteristica, che sono queste risate registrate, che poi diventeranno una cifra dell'induzione a ridere. Cioè, ti delineo la situazione comica. Ecco, naturalmente si è risvegliato il fronte tradizionalista e conservatore dell'integrità della trama di Happy Days, e abbiamo Marco che naturalmente si è indignato per ciò che abbiamo detto. Marco, buongiorno. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei lo esclude proprio a priori, è impossibile secondo lei? No, è probabile, però allora facevo il pensiero, no, che quella era l'età della mia giovinezza, no? E in televisione all'epoca c'erano i Puffi, e c'erano 100 Puffi con Puffetta. Beh, ma era chiaramente una ninfoma, questo è sempre saputo. Ma io penso che forse... Ma anche i Puffi erano gay, cioè nel senso che era un sottinteso... Quindi era una frustrazione eterna. L'unico era il grande Puffo che aveva... Beh, ninfomane in un paese di gay. Infatti, per questo si manteneva l'ordine, non c'era tensione. Comunque, torniamo al punto adesso, torniamo al punto della famiglia Cunningham. Lei trova che sia dissacratorio dire quello che era abbastanza chiaro sotto gli occhi di tutti, cioè che fra Fonzi e la signora Cunningham ci fosse una liaison nei fuoriscena, sì. Fuoriscena, sì. Ma io sinceramente non ci ho mai pensato, cioè, quando vedevo la signora Cunningham a tutto pensavo tranne che a quello. Ma è logico, tutte le persone normali pensano a tutto meno che a quello. Ma lei deve pensare che c'era un rapporto di mercimonio. Fonzi era una persona che viveva di espedienti e si giocava l'unica carta del suo fascino. La signora Cunningham metteva a disposizione di Fonzi, cioè il marito tramite i buoni uffici e la moglie, la mansarda in cui Fonzi viveva a sbaffo, a uffo, mangiava, beveva, dormiva, ci portava le ragazze e tutto. In cambio cosa aveva la signora Cunningham se non la gratificazione di Fonzi, che era il gallo del grande pollaio che ogni tanto dava una grattatina anche alla gallina padrona di casa? Il marchettaro in pelle nera, diciamo. Sì, questo era detto in parole povere. Ma forse gli bastava la stima di Fonzi? Fonzi non aveva bisogno di questo e la signora Cunningham... Quanti anni, stimo moltissimo. Quanti anni ha lei, Marco? 38. Alla sua età dovrebbe sapere che la stima è molto bella, ma non è sufficiente a garantire un rapporto così continuo con una donna, capito? Giusto la moglie di Fantozzi dice: Ugo, io ti stimo tantissimo, ma perché lì è una questione, è un obbligo che ormai sono legati dal mostro che hanno concepito. Nicoletti, lei è un grande ed è anche un gran provocatore. Va bene, grazie Marco. Andiamo avanti o dobbiamo smettere? No, dobbiamo smettere. Lasciamo la linea allora alle informazioni della borsa. Ci sentiamo tra un istante su questa annosa e, mi rendo conto, mai troppo sufficientemente discussa questione del rapporto clandestino e adulterino tra Fonzi e la signora Cunningham. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Mi rendo conto di aver pestato una mina antiuomo e giustamente sto qui aspettando e non sapendo se togliere il piedino e saltare in aria o trovare qualcuno che me la disinneschi e mi salvi la vita. Nicoletti, non stupisce che quello che esce dalle tue membra sia malfatto. Basta sentirti parlare in tutti i sensi, fisico e mentale. Questo è il più tenero dei messaggi arrivati via SMS. Poi giustamente mi fa riflettere un ascoltatore, ha ragione, che il colbacco con le corna lo aveva Fred Flintstone per la loggia del bufalo acquatico. Alla loggia del leopardo c'era il fez leopardato, è vero, il papà di Ricky nascondeva le appendici frontali che gli procurava la moglie con Fonzie con un fez leopardato. E questo è il punto dolente su cui devo sentire i nostri ascoltatori. Cristina. Sì, buongiorno. La sto ascoltando con apprensione. No, io volevo chiarire questo punto perché è importantissimo. No, è fondamentale. È fondamentale. Cioè, la pietra di volta di tutta la nostra adolescenza, le nostre sicurezze, insicurezze, è basata su questa sorta di non detto. Fonzie si trombava la mamma di Ricky, questo è il problema. Sì, sì. Lei si è convinta. Sicuramente, perché c'è una puntata dove loro intuiscono di essere innamorati, però poi non si capisce. Allora lui... Fonzie dice a lei: beh, insomma, se la tua relazione con tuo marito non va bene, ti consiglio di creare delle situazioni un po' piccanti per cambiare un po', e le consiglia di fare una scena a tema, e lei si veste da odalisca. Il marito torna, la trova vestita da odalisca, manco se ne rende conto. Naturalmente. Insomma, questo è veramente, volevo chiarire, perché sono stupita di tutti quelli che dicono no, non è possibile, è straevidente. Ma era evidente, era normale. Certo. Era, diciamo, il solluchero amoroso della signora Cunningham, e sì, per lui era la tenutare che gli lasciava la casa in affitto, gli faceva manicare, gli stirava le camicie, gli faceva delle cose. Però attenzione, siccome lui poi in fondo è un moralista, allora dice no, cioè... è la radice italiana, naturalmente, sì. Esatto. Perché lui lo fa come un dovere, perché sa che deve mantenersi comunque l'affitto, ma in realtà odia il fatto che una mamma di famiglia ceda alla lussuria. Esatto. E questa sorta, lo so, è una psicologia molto complicata. Grazie. Esatto. Grazie a voi. Emanuele. Sì, buongiorno. Il suo punto di vista su questa vicenda, così la chiudiamo e passiamo a un altro argomento. Beh, più che il mio punto di vista è il mio aver emulato mio malgrado, nel senso che non me ne rendevo conto che poi potesse funzionare quello che forse Fonzie ha fatto. Beh, questa è una prova, se funziona nella realtà vuol dire che è plausibile la trama. Cosa è successo? Beh, è successo che quando ero adolescente passavo la vacanza estiva con mio fratello e mia nonna in quel di Porto Rotondo negli anni '80, e avevo un amico carissimo con cui facevo tutte le biricchinate dell'epoca, di cui non facciamo il nome, naturalmente, la cui mamma americana era... sta dando degli elementi inequivocabili. Comunque, beh, la mamma americana era lasciata a sua volta in abbandono dal marito imprenditore in giro per il mondo per i suoi affari. Ne parla come se fosse una macchina parcheggiata, un'automobile parcheggiata così sul ciglio della strada. Beh, diciamo che poi aveva altre auto in affitto in giro per il mondo. Ah, ecco. E con la storia del bello e dannato, che è stato il mio life modus per cercare anche di rimorchiare le ragazze, visto che fondamentalmente sono molto timide, quindi facevo avvicinare loro in questa... E cosa simulava? Un passato tenebroso, che è stato in galera? No, assolutamente, ero adolescente, però problemi vari che non riuscivo a spiegare. Problemi di droga, queste cose qua. Discorrendo, e quindi alla fine era un qualche cosa per farla avvicinare. Diciamo che ero molto taciturno in un'epoca, agli anni '80, in cui tutti quanti invece erano colorati. E quindi la mamma calava su di me le sue attenzioni fino al momento in cui le vacanze non le passavo praticamente sempre in casa loro, anche non solamente lì a Porto Rotondo, e fu la mia Vespucci. Cioè ci fu un'intima d'azione? Ci fu qualche cosa che mi fece imparare le gioie del sesso. E il suo amichetto se ne accorse mai? Non lo so, sinceramente, però non me lo disse. Il mio amichetto era molto interessato a mia sorella, solta, e quindi... Ah, quindi ci fu uno scambio, lei dava la sorella in cambio della mamma. Qualcosa del genere. Va bene, è una maniglia al contrario. Grazie, Roberto. Buongiorno. Sa, lei è molto bravo, fa le provocazioni, i polli cadono dentro alle provocazioni. No, ho messo il dito nella piaga, non è che ho fatto provocazioni. No, sì, ma... Certe cose vanno dette, qualcuno deve il coraggio di dirle. È uno specchio, è la realtà. Io dico questo, io ho 44 anni, io sono cresciuto con Happy Days, è un film eccezionale, quello che la televisione non fa adesso, perché per, in Happy Days c'era la famiglia, cardine fondamentale di tutta la, la certo. società, ok? L'amicizia, lei si ricorda l'amicizia fra, fra Ralph, Pozzi certo. e via di seguito? Mm. Tanto erano tre i fratelli, non erano due, glielo ricordo perché c'era Chucky. E del rapporto fra i Cunningham cosa dice? Io dico che, beh, guai, poi c'era un'altra cosa che era fondamentale, cosa che adesso si era la scuola, l'importanza della scuola, certo. il senso di appartenenza, l'istruzione, tutte cose che certo. vengono mistificate era in questa era nostra società, ok? Invece, tanto prima di tutto l'affitto lo pagava Fonzi. No, guardi, c'è una bellissima puntata all'inizio in cui specificano anche che fossero $20 alla settimana, perché io l'avrò visto almeno che lui non dà mai volte. però lui non li dà mai. Ma noi parliamo del fuori scena, poi vengono ritornati questi soldi da Marion. Lei esclude a priori possa esistere anche nella famiglia modello questa cedevolezza in fondo anche concepibile di amore materno che sfocia in una perdizione carnale. Chi ha bisogno, quello che non succede. Lui aiuta lei che aveva bisogno. Famiglia, un ragazzo senza famiglia che si aiuta. Questo era quello che succedeva, cosa che non succede nella realtà o in gran parte della realtà. Sì, ma che questo aiuto potesse anche andare in una sorta di conforto teneramente legato ai sensi, non ci vedo nulla di male. Secondo me, essendoci invece cardine fondamentale della famiglia monogamica, usiamo questo termine, sì. Tutto questo non poteva succedere. Lei esclude a priori che nella famiglia monogamica ci possano essere dei momenti di cedimento. No, beh, lo escludo a priori, sì. La regola dice che non devono accadere, ma purtroppo no. accadono, siamo umani. Sì, siamo umani, questo è... E quindi possono accadere anche alla signora Cunningham? Potrebbero essere anche accaduti alla signora Cunningham. Vedi, arriva d'accordo che possono essere accaduti. Grazie Roberto. Gianluigi. Sì, ciao Gianluca. Io telefonavo perché all'inizio hai parlato della trasmissione durante pomeriggi simili a quelli che ci sono magari oggi a Roma. E anch'io effettivamente ho questo ricordo, ho 32 anni, quindi sono cresciuto anch'io vedendo Happy Days il tardo pomeriggio, ma comunque era un appuntamento fisso, diciamo. E c'erano tanti motivi per vedere la serie, che chiaramente era palesemente buonista, cioè era tutto... E quindi, essendo una serie di buonista... Per questo c'è questa reazione di fronte al grammo di trasgressione che abbiamo pensato ci potesse essere messo fra le righe. Lo escludi? No, in realtà è affascinante chiaramente smitizzare il mito, no? Perché la serie, la sitcom, era chiaramente stata fatta, non so, cioè trasmessa a cavallo sì, tra gli anni. Noi in realtà diamo 80. Corpo al mito, nella sua parte oscura, nella sua parte da interpretare, il mito assume la sua vera dimensione. Alessandro, io vorrei passare avanti. Sì, chiudiamo poi con lei chiudiamo la storia delle storie extraconiugali di Marion. Sentiamo come la pensa lei, poi passiamo a un altro argomento. Ma io, con l'esperienza, con tutte le puntate che ho visto, secondo me c'era un pensamento maligno da parte più della mamma e un rispetto di Fonzi per la mamma. Cioè lei avrebbe voluto, lui giocava su questo desiderio senza cedere mai. Secondo me lui portava rispetto perché era riconoscente alla famiglia, eccetera, all'amicizia. Lui era il mito perché forse c'era più curiosità della mamma perché vedeva che Fonzi aveva successo con tutte le ragazze che dice, secondo me pensava. Che ci avrà lui che non c'ha mio marito. Che ha di particolare che certo. queste ragazze si innamorano. Era più venuto un pensiero a lei che a lui che portava rispetto per la mamma del perfetto, figlio. Mi sembra un'ottima lettura che mette a pace tutti, andiamo avanti. Ragazzi, questa volta l'avete fatta grossa, andarvene tutto il giorno in giro in cerca di guai. Sono fatti vostri. Zio Jesse, non volevamo fare... Ma Daisy, quante volte vi ho detto, ragazzi, state attenti a Daisy? E quante volte voi mi avete detto, sta tranquillo, zio Jesse, e voi che fate? La fate sbattere in galera. Scusa un momento, zio Jesse, non è affatto andata così. Daisy è l'unica speranza del clan. Grazie tante. Il ramo della famiglia Duke finirà con Daisy. Eh già, credere che voi due finiate per avere una famiglia di razza è come credere a un asino che vola. Giuseppe Sansonna. La sigla riporta naturalmente al ricordo anche su questa orripilante serie che io non ho seguito con molta affezione, devo dire. Ma io appunto l'ho intravista da bambino, ecco, se lì ci sono delle reticenze in Happy Days, qui siamo conclamatamente nel porno fine 70, inizio anni 80, quelli con John Holmes. Eliminate le scene hard, però i cugini Duke che entrano in questa Georgia torrida, e in cui c'è poi il nonno con la sua salopette, ma soprattutto c'è Daisy, questa splendida appunto mancata pornostar con questi pantaloni di jeans sempre in evidenza, circondata da questi poliziotti ebeti e i gonzi, appunto, rimanendo sempre nel genere, nella nomenclatura del genere. Insomma, questo era. Abbiamo subito un ascoltatore su Hazard, cioè il suo punto di vista. Antonio. Buongiorno. Lei era la sua passione, questo telefilm? Era la mia passione, e coincidendo con gli anni dello sviluppo, io mi ricordo che le prime puntate le vedevo per vedere gli inseguimenti, i salti delle macchine, ma verso gli 11-12 anni quello che mi interessava vedere era Daisy Duke. Cioè, naturalmente. Ad un certo punto, ma fu proprio il cambiamento. Grande responsabile dei calo di diottrie, naturalmente. Non c'è un presupposto scientifico, perché io ci vedo benissimo, però aspetti, mi ero dato da fare per far calare le mie il colpo di fusta, ma... arriva improvviso verso i 50 anni. Beh, insomma, sono passato ad altro, ecco. Va bene, però... comunque le piaceva, diciamo, c'è questa doppia valenza, donne e motori, in una visione, una versione compatibile con i rigori del tempo, ma allo stesso tempo lasciava molti attimi di sospensione fantasiosa. Molti, i primi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La mia prima storia. Cenerentola, la piccola delinquente. Cenerentola, mi ribolle il sangue quando penso a quella rospetta. Pensa alle sorellastre, due buone samaritane, l'hanno tolta dalla strada, e proprio quando loro hanno bisogno di lei, cosa fa quella? Se ne scappa via in una zucca. Come hai corretto la sconcezza? Semplice. Come l'orologio suonò a mezzanotte, la polizia, avvertita dalla sua gentile matrigna, trovò Cenerentola sdraiata sulla cenere, con la scarpetta di vetro rubata, e la portò subito in prigione. Cara mia, è fantastico! Questo aprirà gli occhi ai lettori di tutto il mondo. E pensare che quando per la prima volta si vedevano in televisione italiana la serie dei telefilm della famiglia Addams, i telespettatori nemmeno sapevano cosa fosse Halloween. E pensa quanto immaginario Giuseppe Sansonna anticipava questo telefilm rispetto a quelli oggi più calcati dai film, dai telefilm, dai videogame, dalle mode giovanili, via dicendo, il dark, il vampiresco, lo zombesco, il mostrificato. Io adoravo questa serie perché era horror, humor nero alla Breton, intriso di appunto questa profonda ironia, e volevo essere Gomez, cioè il capofamiglia con i suoi baffi che si eccitava alle parole francesi di Mortisia. Poi c'era Zio Fester, che come dicevamo prima era Jackie Coogan, ovvero il monello di Chaplin. Questo vorrei soffermarmi un istante su questa cosa qui, il monello di Chaplin, questo ragazzino disgraziato che ebbe la sua fortuna fanciullesca sul fatto, dopo il film fu testimonial non so di quanti prodotti da formaggi, burri in scatola, vitamine, tutto. Finì la sua carriera facendo Zio Fester, cioè un orrendo vecchio pelato e mostrificato. Ovvero essere in una stessa vita l'archetipo della bellezza tenera e l'archetipo della bruttezza, della bruttezza grottesca, però allo stesso tempo rielaborò in qualche modo la sua... Poi lui era una sorta di generatore umano, serviva ad alimentare i trenini, anche io avevo i trenini da piccolo, cioè Gomez che si divertiva a creare questi plastici magnifici e a farli saltare in aria. Ci trovava una sublime visione della vita, in questo era splendido, insomma. Poi c'era Lerch, il Frankenstein, che è il maggiordomo, la mano alla Nerval, questa mano mozza che si muove. La mano mozza era la più grande invenzione degli Addams. 800240024, stiamo cercando di revocare per sprazzi sonori quelli che erano i momenti neghittosi dei pomeriggi televisivi degli anni Ottanta. Lo facciamo questa mattina che a Roma è ricalato improvvisamente l'inverno, ma l'avevo detto che aprile era il più crudele dei mesi, e improvvisamente ci ha fatto dimenticare la primavera, ha reso vani i nostri vestimenti leggeri, oggi ha fatto ripiombare in una mattinata di novembre, e quindi ricordiamo la televisione degli anni che furono. Dimmi quella maledetta combinazione. Va bene. 35 a destra. 35 a destra. Forse 53 a sinistra. 53 a sinistra. Però io trovo che questo modo di aprire le casseforti è molto noioso. Tu pensa a dare i numeri, buffone. Va bene. A destra 81. Destra 81. A sinistra ora 21. Sinistra 21. Destra 33. Destra 33. A sinistra 43. Sinistra 43. A destra 19. A destra 19. E adesso potete aprire. The creepy and the cookie, mysterious and spooky. Naturalmente la cassaforte esplodeva, non moriva mai nessuno, anche se c'erano simboli legati appunto alla narrativa noir, legati al macabro. C'erano scheletri, bare, casse da morto, cripte fumose piene di ragni e di pipistrelli, ma in realtà si vedeva che era tutto finto. Era una morte talmente posticcia nel suo essere rappresentato, un macabro talmente fanciullesco da essere tenero. Sì, qui i rapinatori stanno torturando Fester e stringendogli la testa in una pressa, ma in realtà è solo un beneficio per la sua emicrania. In realtà ogni volta che incontravano sia delinquenti che borghesi comuni, gli Adams straniavano tutti, erano in un altrove, cioè erano veramente un lancinanti per questa società americana. Ne disvelavano molte contraddizioni in maniera ironica. Sì, era una famiglia diversa all'interno di famiglie omologate. La loro diversità è essere proprio strigoni, streghe, mostri, una famiglia che ogni anno ha una dimensione parallela. Harry Potter ti sembrava blasfemia questa, ma tinse molto dagli Adams. Le famiglie dei maghi e dei babbani, degli amichetti di Harry Potter, la stessa famiglia che ospita Harry Potter, c'è questo senso di diversità. Il babbano, cioè il non mago, vede con sospetto colui che ha un piede in un'altra dimensione. Poi se pensi a quanto attinge da lontano, perché gli Adams nascono negli anni 30 come serie fumettistiche e arrivano ai giorni nostri. Sì, ai film, che poi i film non sono stati un granché rispetto. Sì, però con dei guizzi, però comunque permangono nell'immaginario, è un segnale che sono per... C'era Mortizia che tagliava le rose e lasciava il gambo con le spine, insomma, è meraviglioso, una metafora. Enrico, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno a lei e al suo ospite. E niente, mi è venuto in mente che io ho rivisto recentemente sia versioni di film o anche di questa serie e alla mia età di 52 anni ho colto una retrolettura, non so se... Ce la racconti. Non so se è mia soltanto o voluta. Cioè, mi sembra che la famiglia Adams con le sue caratteristiche mostruose ha molto più la caratteristica della famiglia unita delle cosiddette famiglie normali che invece molte volte sono mostruose, non so se mi spiego. Ah, io sono d'accordissimo, perché è molto più mostruosa la famiglia di Happy Days che quella degli Adams, cioè quella era veramente raggelante quella di... Sì, ma è il legame che unisce i freaks, è il patto di sangue che si fa sul tavolo dei mostri di Todd Browning quando devono bere al calice e dicono sei una di noi, sei una di noi, e la ballerina si rifiuta e con questo si condanna a essere tagliata a pezzi e diventare lei stesso mostro. Diventare gallina, sì. È chiaro che i diversi si uniscono tra di loro e sono coesi rispetto agli altri. Andiamo avanti con la nostra rassegna. Questo giorno si avvia ad essere un grande giorno. Oggi ti troveremo un altro posto. Perché non posso continuare a star con te? Beh, non puoi perché mio padre è conservatore, puritano e... Nerd. È così. Anche se non ho capito. Ah, che è questo brutto liquido? Questo liquido è caffè. E che ci fate con questo? Si versa sui fiocchi di Gran Turco. E i fiocchi lo bevono? Sembra che non gli piace. Qua un'altra serie dotata di alta surrealtà in cui c'è l'esordio, almeno per noi, di Robin Williams, nano, l'alieno che arriva sulla Terra e ha delle singolarissime interpretazioni di ogni nostro gesto comune. Sì, questo è quello che non riuscì a Flaiano con un marziano a Roma, riuscì a questa serie. Lui beve i drink con l'indice, poi in una puntata addirittura incontra Fonzi e Fonzi gli mostra il pollice e gli mostra, sì, l'indice. Sì, che nasce come spin-off di Happy Days. Sì, c'è questo incrocio fra i due. Sì, appunto c'è una revisione, una visione esterna della realtà quotidiana americana, sempre molto bonaria, un dolce ricordo. Sentiamo Antonio. Sì, buongiorno, avete praticamente detto tutto ciò che... No, no, ma dire. L'importante è che lei sia stato testimone affezionato di questo passaggio. Ma in realtà per me lo spin-off è stato al contrario, ho visto dopo la puntata di Happy Days in cui c'era Mork ed è stata una sorpresa incredibile, non ero abituato agli spin-off e mi si creò tutta una strana sensazione. Un cortocircuito, gli immaginari che andavano a collidere tra di loro. Sì, perché questo... mi sembra nel pub, nel locale dove vanno i ragazzi, appare questo personaggio. O forse Fonzi era solo in casa, mi pare una cosa del genere, mi pare di ricordare in cucina. Una sfida tra Fonzi e Mork a colpi di dita, di trucchi, perché poi praticamente Fonzi era un alieno a modo suo, nelle varie puntate si è evoluto come personaggio, arrivando al fatto che lui tutto ciò che toccava si aggiustava, partiva, eccetera eccetera. Si può cominciare dal jukebox all'interno appunto del locale. La ringrazio Antonio, la sigla ci dice che dobbiamo lasciare la linea. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie al professor Chiappini, fornitore di documenti, grazie a Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.